9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Buongiorno cari ascoltatori, con la mia sigla bis preferita da qualche tempo a questa parte. Anche questo giovedì 19 di gennaio, San Mario e Marta, quindi capite che con i suoi Super Marios, Mario Draghi e Mario Monti. Oggi San Mario lo devo dire con particolare fiducia e speranza, anche che entrambi, visto che hanno belle responsabilità sulla tenuta dell'euro, possano spesso fare cose buone e portarci quindi presto a non avere più questa sigla, alla quale però molti si sono appassionati, io per primo. The end. Allora, il tema della puntata di oggi è la bozza del... sono 107 pagine, una cinquantina di articoli, di misure per l'apertura del mercato alla concorrenza, le cosiddette liberalizzazioni, che è previsto il Consiglio dei Ministri domani dovrebbe approvare. È una bozza con variazioni in questi giorni su alcuni punti delicati. È una bozza, oggi non voglio toccare un solo punto, a meno che nelle telefonate venga comunque, che è quello dei taxi. Ai taxi ho già dedicato una trasmissione, ho già detto come la penso. Tentiamo oggi di soffermarci su almeno alcuni dei maggiori capitoli che vengono investiti dalle misure che verranno approvate domani. Nel va e vieni, diciamo così, di norme che in queste settimane sono comparse nelle bozze, scomparse, si sono modificate e così via, allo stato attuale, almeno a giudicare dal condensato, dal precipitato di questi ultimi giorni, si dovrebbe essere raggiunto tra il sottosegretario Catracalà, ex presidente dell'antitrust, al quale si deve l'imprinting il più dell'impostazione di questo provvedimento, il ministro Passera e altri componenti del governo, e anche il confronto con le categorie. Per esempio sulle professioni è evidente che l'opinione del ministro Severino della Giustizia, all'inizio un po' arrabbiata perché non era sua l'impostazione assunta sugli ordini professionali, ha rifatto capolino. Io dico, prima di presentare gli ospiti e di prendere loro come guide, in estremissima sintesi come la penso su alcuni punti. Primo, vorrei che fosse chiaro, la liberalizzazione e l'apertura del mercato sono dei moltiplicatori di crescita. Su questo mi ha colpito e fatto riflettere ieri una nota del rettore di Eutecne, che è l'organo online del commercialisti dottori contabili, che ha ragione nel sostenere i moltiplicatori, se si applicano a un fattore che è zero, comunque danno zero. Se io faccio 7 per 0, il risultato è zero. Se io aumento il moltiplicatore a 14, 14 per 0 da zero. Ecco, quando un'economia va male non è certo il momento in cui si apprezzano meglio gli effetti dell'apertura del mercato, perché sprigiona energie attraverso la concorrenza, il meccanismo di più libera formazione dei prezzi e prezzi a basso per maggiore qualità e quantità di beni e servizi. L'effetto di queste cose si vedono ovviamente quando in circolo più propensione, fiducia, attività economica. Non è esattamente la fase in cui siamo, sono comunque necessarie, ma questo lo dico per mettere le mani avanti, perché non crediate che tra 3 mesi questo significhi chissà quanta crescita aggiuntiva. Per la crescita aggiuntiva la mia cura radicale, sapete qual è? Drastico abbattimento dello stock di debito pubblico, drastico abbattimento della spesa pubblica. Perché? Perché oggi per crescere davvero ci vorrebbe una misura radicale: l'abbattimento del cuneo contributivo sul lavoro dipendente, del reddito sul l'impresa e il lavoro e il reddito da lavoro. Questo ci vorrebbe, questo il governo Monti continua a dirlo con crescente preoccupazione, non ce l'ha dato. Non ci ha dato il taglio sugli stock del debito, non ci ha dato il taglio sugli stock della spesa pubblica, non ci ha dato il taglio che più di tutti ha l'effetto, come insegna qualunque manuale di politica economica, sul rilancio a breve della crescita, che è quello sul cuneo contributivo nel nostro paese, reddito da lavoro, reddito d'impresa. Invece ci dà più aumento della pressione fiscale e via del contenimento del debito pubblico solo con gli avanzi primari sanguinosamente raggiunti per via fiscale. Io credo che questa sia un'impostazione sbagliata, un'impostazione continuista, perché è la stessa dai tempi delle manovre del governo Amato iniziano avanti a oggi, perseguita da centrosinistra, centrodestra, governo dei tecnici. È un'impostazione macro keynesiana e convinta che debito pubblico e spesa pubblica non si possano abbattere a colpi d'ascia. Io sono convinto del contrario e credo che più della crescita verrebbe di là. Detto questo, le liberalizzazioni ci vogliono, il problema è farle bene in un paese in cui ciascuno ha in testa più capelli, quando viene sfiorato o toccato urla, grida e dice: ma come, c'è la crisi, volete toccarmi? Ma come, ce la faccio a malapena, volete toccarmi? Certo, per aprire la concorrenza al mercato bisogna esattamente agire sulle concrezioni incrostate di tutele privilegiate, che sono quelle che escludono la concorrenza. In sintesi estrema, per esempio, a me la norma sulla benzina via l'esclusiva per i gestori, che è un po' la scelta fondamentale fatta per contenere le cose e che è un cavallo di battaglia di Catricalà, come si vedeva anche dai documenti dell'antitrust quando era lui a guidarlo, levare l'esclusiva per i benzinai a me non convince come idea, perché rompere le catene verticali di distribuzione delle società petrolifere è una cosa che potrà avere un po' di effetto demagogico, ma è una cosa antieconomica, perché abbatte la marginalità e quindi l'efficienza delle società stesse. Vedremo se mi sbaglio, ma a me sa di misura un po' demagogica. Mentre viva il fatto che riappare nel provvedimento la separazione proprietaria della rete di distribuzione del gas, cioè Snam rispetto all'Eni. Qui c'è una vicenda lunghissima, l'incumbent è sempre stato contrario, poi negli ultimi anni ha un po' attenuato la sua obiezione, ma di sicuro non è una misura che all'Eni può fare piacere. Vedremo, naturalmente c'è un termine di 6 mesi per emanare la norma di separazione, vedremo bene di che si tratta. Il sottostante è che siccome col gas noi alimentiamo una percentuale tanto elevata dei nostri consumi energetici, sulla copertura, diciamo così, dei take or pay, dei contratti a lungo periodo e della loro relativa controassicurazione finanziaria di importazione da parte di Eni, c'è una specie di copertura integrata che si fa con la proprietà della rete di distribuzione dei prezzi, è un eccesso di posizione dominante, quindi questo è un bene che avvenga. Sulle professioni, l'abrogazione delle tariffe minime e massime a me vede completamente d'accordo, le professioni si sono largamente riappropriate con l'apprendistato a fine laurea, che era un pezzo con loro concordato attraverso il ministro Severino, si sono riappropriate invece di questa parte e della parte, diciamo così, deontologica. Resta aperte molte materie da approfondire. Bene per quello che mi riguarda la parte relativa alle farmacie, sia l'aumento del numero, per così dire, sia le previsioni che riguardano il farmaco generico. Parentesi, avete visto la campagna pubblicitaria in cui si dice che qualcuno che va a sciare ha male ai denti e non troverà una sola farmacia aperta perché le liberalizzazioni le faranno chiudere? Ecco, quello è il classico pessimo esempio di una pessima trovata pubblicitaria fatta per mentire spudoratamente. So apposta che molti farmacisti mi diranno che sono io a usare termini duri, ma dire che perfetta liberalizzazione diminuisce il numero delle farmacie, visto che l'intento dichiarato con fin troppo dirigismo, visto che se ne stabilisce il numero, a me non piace lo Stato che stabilisce il numero, qui invece si stabilisce un numero, questo non mi convince, per esempio. Ma dire l'esatto opposto e pagare pagine pubblicitarie per dire l'esatto opposto è una classica cosa che non mi piace. Non mi convince, per esempio, ed è in analogia col mio dubbio su rompere la catena verticale della distribuzione dei carburanti e benzinai, la scelta analoga che Catricalà fa sulle polizze, cioè l'idea che si abbatte il prezzo per più concorrenza se noi andiamo alla possibilità dell'agente pluriprodotto. L'agente pluriprodotto ha una formazione e anche, diciamo così, una capacità di conto economico attraverso i clienti che lo sfamano, per così dire, che sono il suo fatturato, da consentirgli una pluralità di collaboratori, o altrimenti farà una scelta di pluralità di prodotti esclusivamente volta al tipo di cliente che deve soddisfare. Io credo invece che le catene distributive specializzate, anche di polizze di prodotti finanziari, abbiano migliori possibilità di unire insieme competenza e specializzazione, e che spetti al cliente girare tra più catene, più rappresentanti, più venditori specializzati. Naturalmente questa è una mia obiezione, perché io tengo conto anche degli effetti che le misure di apertura alla concorrenza hanno sull'organizzazione del mercato, cioè sulle imprese, non solo sul versante della possibile riduzione a breve dei costi. Vedremo se ha ragione questa impostazione, che è quella che sceglie invece il governo, mentre io su questo ho dei seri dubbi. Sicuramente è un bene invece la misura che interviene per i conti base bancari. Ci dovrebbe essere una qualche, diciamo, passo avanti rispetto al fatto che i costi, le banche avendoli molto alti per i margini bassi, per la ricapitalizzazione e per i problemi di assicurazione di liquidità sul mercato commerciale di questi ultimi mesi, è una misura quella sui conti base volta a contenere i costi per noi tutti. Un bene anche se con la liberalizzazione non c'entra molto, le norme per l'installazione della scatola nera e tagli ai costi della RC Auto. Ancora non ho capito, vado rapidamente alla conclusione, invece ancora non ho capito bene come funzionerebbe l'attribuzione delle competenze tra agenzia ministeriale e autorità delle reti, perché la vecchia autorità dell'energia diventa l'autorità delle reti. Questo è un importante passo avanti, cioè gli si attribuiscono le competenze sulla parità dei diritti universali di accesso a tutti i tipi di rete, non solo a quelle energetiche, ma a tutte quelle dell'autotrasporto, per esempio, non a quelle delle telecomunicazioni ovviamente, ma a quelle dell'autotrasporto sì. Ecco, non ho capito bene come funzionerebbe la questione della revisione delle concessioni autostradali e delle tariffe autostradali, che mi sembra continui a rimanere separata come questione, una attribuita a un'agenzia ministeriale e una invece all'autorità delle reti, che avrebbe un tetto all'aumento dei pedaggi. Anche qua è una materia sulla quale le imprese di settore, dal tempo dell'ultimo governo Prodi, vanno incontro ogni anno a modifiche degli impianti concessionari e delle tariffe. Ogni anno non si può mettere in condizioni imprese concessionarie private, per quanto tutti siate demagogicamente convinti che nessuno di loro spenda abbastanza negli investimenti, non è così, perché da molti anni i controlli sono diventati, proprio da quei tempi, da quando Di Pietro con un tratto di penna, con il decreto, si rimangiò tutti i contratti privati che lo Stato aveva fatto con i concessionari autostradali. Ogni anno cambia la normativa, la stiamo cambiando per l'ennesima volta. Basta che questa doppia attribuzione di competenze a un'autorità delle reti, innestandola su quella dell'energia, e invece un'agenzia ministeriale, non riporti per l'ennesima volta a buttare tutto per aria, perché è diventata una tragica ricorrente questione, che concede molti più diritti di protesta ai concessionari autostradali di quanti poi non ne conceda voi automobilisti, che continuate a sottolineare magari spese per investimenti annunciate e non realizzate, anche se in realtà per esempio per Autostrade per l'Italia non è così, e io questo ne do atto, perché vado a controllare e gli impegni sono mantenuti. È più lo Stato che si rimangia la parola di quanto non siano loro. Ecco, io voglio per il momento fermarmi qui, non dico una parola sui taxi. Io non avrei messo i taxi nella scelta nazionale, io avrei concentrato i taxi su due o tre città italiane. I problemi sono diversi città per città, avrei dato un'impostazione generale. Ho già fatto la trasmissione illustrando la proposta del raddoppio delle licenze compensative, non ci torno sopra. Mi pare di capire però che il governo sarebbe intenzionato a tenere duro, vediamo, perché la categoria è a sua volta, fino a che il Parlamento non si troverà il decreto, e questa volta credo che non lo approverà in una settimana Camera e Senato, ma si prenderà tutti i due mesi necessari per la conversione del decreto legge, visto che sono norme di impatto e gli interessi interessi rappresentanti in Parlamento sono pesanti e sono tanti, quindi dovremo vigilare soprattutto durante l'esame parlamentare. Temo che i tassisti saranno durissimamente determinati a forme di lotta come quelle che stanno esercitando in questi giorni, lasciando a piedi turisti e viaggiatori ad autostrade, perdonatemi, negli aeroporti come nelle stazioni, a oltranza, e vedremo. Io avrei fatto una scelta più selettiva su un paio di città su cui si concentrano i problemi, e anche in quel caso l'ho già spiegato, non ci torno sopra. I problemi di Milano non sono quelli di Roma, perché a Milano sono stati fatti passi avanti nei turni, nell'estensione familiare, alla conduzione e così via, che a Roma non erano stati fatti. Fine del mio pistolotto. Sentiamo invece le opinioni degli ospiti oggi che hanno accettato di stare con noi. Abbiamo Linda Lanzillotta, che è deputato dell'Alleanza per l'Italia, fondatrice e presidente di Glocus, che ieri ha illustrato a Roma proposte anch'esse sugli stessi temi, 10 punti individuati, e sentiremo quindi la sua opinione su queste anticipazioni del decreto di domani e in che cosa le 10 proposte di Glocus elaborate insieme all'Istituto Bruno Leoni si differenziano. Buongiorno e grazie a Linda Lanzillotta. Buongiorno. E poi il presidente del CERMI per competitività e regolazione dei mercati, Fabio Pamolli, che ci guida abitualmente su queste materie un po' scivolose. Grazie, buongiorno professor Pamolli. Buongiorno. Allora, Lanzillotta, se dovesse tentare di enucleare le maggiori differenze rispetto alle vostre proposte rispetto a queste, cosa meno la convince invece di quello che ha letto nella bozza del governo, cosa ci direbbe? Ma diciamo che il pacchetto è abbastanza robusto e risponde a quello che molti di noi avevano suggerito, e cioè intervenire nello stesso tempo su tanti settori, perché questo consente intanto a nessuna categoria di sentirsi la più perseguitata, e soprattutto consente di avere in qualche modo sì la penalizzazione, anche intravedere i possibili vantaggi delle liberalizzazioni, perché la cosa più difficile di una politica di liberalizzazioni è proprio questo, percepire un vantaggio che è molto differito rispetto a penalizzazioni percepite immediatamente. Ma io quello che rilevo insieme a molti aspetti positivi è sull'aspetto delle professioni. Forse si poteva fare di più in termini di liberalizzazione del sistema ordinistico. Noi avevamo suggerito di andare più in là, addirittura di mettere in concorrenza tra loro gli ordini professionali, avendo una certificazione pubblica, ma essendo un libero sistema associativo che aveva delle funzioni di formazione, di certificazione, ma non aveva l'esclusiva e il monopolio della gestione delle singole professioni. Per quanto riguarda i servizi pubblici locali, ci sono dei miglioramenti rispetto alla normativa attuale, perché c'è una spinta alle concentrazioni delle piccole gestioni frammentate, c'è un abbassamento della soglia per l'in-house, rimane una procedura che io trovo molto barocca, che viene affidata ai comuni, e cioè che bisogna fare una delibera ricognitiva di quello che ciascuna amministrazione ritiene che debba rimanere nella privativa pubblica, secondo una definizione antica, e che io temo si traduca in una procedura, in una discussione filosofica dei rapporti tra Stato e mercato, che rischia di allargare l'ambito della presenza pubblica piuttosto che restringerlo. Io ne sono ragionevolmente certo, lo interrompo solo per dire che sono integralmente d'accordo, sono molto deluso da questa procedura di autocertificazione dichiarata. Comunque, chiusa la mia obiezione. Esatto. E poi non c'è ancora una esplicitazione di un vincolo, e cioè che secondo la normativa comunitaria, l'in-house non può avvenire attraverso società o a responsabilità limitata o società per azioni, perché non c'è un controllo diretto come l'in-house richiede che sia. Questo consentirebbe, nel caso appunto che non ci sia un affidamento mediante gara, di eliminare tutto quel sistema di società pubbliche a affidamento diretto, che è il bacino di degenerazioni sia nella gestione del personale sia nella gestione degli appalti, e che sono strumenti clientelari, quindi lì secondo me si può fare di più, anche se c'è una cosa molto importante che anche questa è stata suggerita, e cioè dare allo Stato un potere di intervento diretto per abrogare le norme regionali o le regolamentazioni comunali che siano anticoncorrenziali, cioè utilizzare in modo molto incisivo e profondo la competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza che dà il titolo quinto in via esclusiva appunto alla legislazione statale. Qui penso che sia uno strumento molto importante perché, come è noto, tante liberalizzazioni fatte dalla legislazione nazionale sono state poi in parte sterilizzate a valle, no? Nella filiera istituzionale tra regioni ed enti locali. Ecco, questo c'è adesso uno strumento per contrastarlo e quindi io penso che questo è importante. L'ultimo punto, poi mi fermo, è la questione agenzia delle reti e in particolare autorità di regolazione del settore dei trasporti. I miei dubbi sono quello che le accennava, e cioè il ruolo di questa agenzia che io penso non abbia, diventa un'articolazione del ministero, non si capisce perché deve essere configurata come agenzia se non per collocare alcune persone e retribuirle un po' più di un funzionario pubblico normale. E poi io credo che benissimo l'autorità delle reti, ma l'autorità così come è configurata forse va riorganizzata e riqualificata, perché ricordo che nel precedente decreto per ridurre la spesa l'autorità è stata ridotta nei suoi membri da 7 a 5 e quelli che sono in carica sono stati nominati per occuparsi di energia. Adesso gli è stata data l'acqua col decreto Salva Italia, ora gli si dà i trasporti, che queste stesse persone siano in grado di avere questa gamma di competenze forse non è scontato, il rischio è che poi il regolatore sia catturato dalle sue burocrazie. Sono molto d'accordo con queste sue ultime osservazioni. Allora adesso andiamo in pubblicità e poi ci ha raggiunto anche Paolo Franco, che io saluto della Lega. Buongiorno, adesso andiamo in pubblicità e poi riprendiamo con Pammolli e Franco. 9 in punto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, abbiamo sentito l'opinione di Linda Lanzillotta, deputato di Alleanza per l'Italia, fondatrice e presidente di Glocus, che ieri ha illustrato un suo documento insieme all'Istituto Bruno Leone in 10 punti di proposte concrete in vista del 107 pagine di bozza da cui adozione è prevista, tranne ulteriori modifiche al Consiglio dei Ministri di domani. Abbiamo sentito i suoi giudizi in larghissima misura, devo dire, condivido le sue obiezioni, io ne ho di aggiuntive per così dire, ma insomma lo facciamo col tentativo di spiegarvi meglio di cosa si tratta. L'articolato è molto, molto complesso, investe molte materie. Abbiamo con noi Fabio Pammolli, il presidente del CERM, e lo dicevo prima, si è aggiunto il senatore Paolo Franco, che appartiene alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato, è questore del Senato della Lega Nord. Buongiorno, lo saluto, buongiorno. Buongiorno a lei. Posso chiedere, qui facciamo un controcampo politico, visto che la Lega poi è l'opposizione a questo governo rispetto tra dei valori, talvolta non vota eccetera, ma poi lo sostiene. Quindi siccome è una responsabilità quella di essere l'opposizione parlamentare di Sua Maestà, voi in realtà cosa ne pensate di questo impianto di provvedimento, per quello che ne avete capito e per quello che si è capito in questi giorni? Beh, questo provvedimento più che altro mi sembra un po' un pannicello che non riuscirà effettivamente a dare uno spunto all'economia come serve necessario. Mi sembra più sia una fase di deregulation rispetto ad una fase di vera e propria liberalizzazione, per due motivi. Il primo è perché se si interviene come si interviene in maniera penso anche abbastanza modesta sulla questione delle stazioni di benzina, dico questo esempio, poi ne posso portare anche altri, ma contemporaneamente un mese prima si sono aumentati a livello complessivo le accise sui carburanti insieme poi anche agli altri prodotti energetici per importi di diversi miliardi di euro. Beh, credo che gli effetti di una liberalizzazione non possano che essere assolutamente modesti o poco riscontrabili dai cittadini. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto, quindi questo è un esempio, l'altro aspetto, quello che riguarderebbe vere e proprie liberalizzazioni, beh, intervenire su taxi o farmacie, per carità, potrà avere un beneficio, ripeto, anche in questo caso modesto, ma nel momento in cui invece si salta a pie pari, si saltano interventi su comparti importantissimi come quello dei trasporti, trasporto aereo, trasporto ferroviario o quello delle comunicazioni, e non si interviene quindi su quelli che sono le vere e proprie asset che hanno, che ha di controllo o addirittura di proprietà dello Stato nell'economia e nel mercato, beh, poco si fa. Cioè, i trasporti aerei sono fondamentali, esistono situazioni di monopolio che non vengono assolutamente toccate all'interno di questo decreto. Sulle ferrovie la stessa cosa, ci sono società ferroviarie che vorrebbero usufruire delle infrastrutture ferroviarie per offrire dei servizi alternativi a quelli delle ferrovie di Trenitalia, delle ferrovie dello Stato, e su questo non si interviene. L'informazione, si parla di liberalizzazioni, però siamo sempre vincolati ad avere un servizio pubblico che costa ai cittadini e che una vera liberalizzazione complessiva e importante in questo settore significherebbe concedere la possibilità a questa azienda, a questa società di essere fuori dal comparto pubblico e misurarsi in una maniera davvero concorrenziale col mercato, senza costringere i cittadini a pagare un canone obtorto collo. Ma poi ci sono anche altre cose molto importanti e pesanti sul mercato del lavoro, ad esempio. Si salta a pie pari anche in questo caso le questioni inerenti all'articolo 18, al limite, al vincolo che questa norma pubblica comporta nel mercato del lavoro, e quindi effettivamente liberalizzazione in senso moderno di questo mercato in questo paese non si hanno. Dall'altra parte si parla di banche, quindi questo altro pannicello caldo del conto corrente, per carità, sarà utile, non dico che alcuni provvedimenti conto corrente base non sia utile, però poi si costringono i cittadini con un altro provvedimento ad aprire, quelli che prendono la pensione di 1000 euro, ad aprire un conto corrente. Quindi nei fatti sono interventi che io reputo siano soprattutto delle proclamazioni di intenti, toccano gli interessi magari minuti dei cittadini o delle piccole attività di impresa o commerciali, ma non toccano, non incidono in nessun modo sui grandi comparti che hanno incidenza veramente forte nel costo e nella concorrenza. Quindi un giudizio iperabbondantemente critico. Ricordo a tutti che il punto che da lei sfiorato, tra i tanti che ha citato, quello della rete ferroviaria RFI, era previsto in una precedente bozza la separazione proprietaria di rete, ora è scomparso, sarà un'altra autorità di cui si prevede la formazione, l'autorità dei trasporti, a dover fare una proposta in materia. Resta invece in ambito ferroviario la norma che consente la pluralità di nuovi contratti di lavoro. Sapete che su questo c'era un contrasto, perché il contratto dell'incumbent è diverso da quello più vantaggioso sottoscritto dalle stesse organizzazioni sindacali invece con il concorrente, cioè con la società di cui sono soci Montezemolo, Della Valle, Punzo, Banca Intesa e i francesi di SNSF, che si avvia proprio adesso alla concorrenza nell'offerta dei servizi a più alto valore aggiunto, quelli sull'alta velocità. Allora, sentiamo a questo punto il professor Pammolli, anche lui che ci dia un giudizio complessivo dei punti sui quali è un po' più perplesso, sui quali nell'impostazione dei diversi dossier che CERM fa da anni sarebbe stato auspicabile qualche passo più coraggioso. A me in realtà sembra che oltre che deregulation sia soprattutto re-regulation, perché ripeto, lo Stato che mi dice quanti devono essere in più i notai invece che darmi un criterio generale, o che mi dice quanti devono essere più le farmacie invece che darmi un criterio generale, e che poi chiede ai comuni atti di autocertificazione, di autovalutazione su quali siano le cose che devono rimanere in house, lì è più riregolazione che deregolazione. Però ovviamente io sono un po' un estremista su queste materie. Che ci dice il professor Pammolli? Ritengo che la cornice che ha dato all'inizio sia una cornice corretta, perché innanzitutto vi è un problema di fissazione delle aspettative rispetto a questo decreto, ed è molto corretto non sovrastimare l'impatto sulla crescita, sull'occupazione di un provvedimento, per quanto sia un provvedimento cornice, ed è altrettanto corretto ricordare che uno dei problemi fondamentali, se non il problema fondamentale del nostro Paese, rimane il peso dello stock di debito sugli oneri e sul costo del lavoro e sulla produttività. Quindi questa cornice, secondo il mio modesto parere, è molto corretta perché consente di posizionare in modo appropriato e anche l'orizzonte temporale degli effetti di misure come queste. Un orizzonte temporale che è associato con una riallocazione di capitali e di capitale umano tra settori che potrà e potrebbe essere consentita maggiormente nel nostro Paese a fronte della liberazione da una serie di barriere corporative o di regimi autorizzativi e prescrittivi nell'accesso alle professioni e ai servizi, ma questi effetti di impatto di un turnover intersettoriale e intrasettoriale sulla crescita sono effetti di medio-lungo periodo. Quindi questa premessa mi pare importante. Un secondo punto è l'importanza nei settori a rete di una visione coerente, e mi pare che questa visione coerente scricchioli un po'. Da un lato l'importanza di una stabilità della cornice, l'ha già richiamata lei e non ci torno, perché effettivamente è difficile programmare investimenti con variazioni della cornice regolatoria a così alta frequenza. In secondo luogo, se si va verso un'authority complessiva sulle reti o se si fanno dei passi in questa direzione, è poi sorprendente vedere che il principio generale che dovrebbe sovrintendere a questa authority complessiva, che è un principio di separazione tra la proprietà e la gestione, non venga affermato in modo chiaro a 360 gradi. Sono d'accordissimo. Si va verso un'affermazione della transizione verso la separazione proprietaria, che peraltro viene rinviata a un atto successivo di Snam Rete Gas da ENI, e però non si fa, e su questo è corretta l'analisi del senatore Franco, un intervento analogo sul trasporto ferroviario, ad esempio. Un altro punto riguarda quello richiamato sia da lei che dalla dottoressa Lanzillotta e riguarda i servizi pubblici locali. Anche in questo caso si rivedono le modalità e le soglie per poter procedere ad affidamenti in-house, ma si va verso una sorta di autodichiarazione dei requisiti per poter derogare al regime dell'affidamento per gara dei servizi stessi, che rischia di avere due effetti. Una disquisizione filosofica, riprendo alla lettera quello che diceva Lanzillotta prima, del confine tra Stato e mercato, determinata su basi locali, e un aumento del contenzioso. Da questo punto di vista non sono così sicuro che il richiamo alla normativa generale sulla concorrenza riuscirà a risolvere i conflitti di competenza dinanzi alla Corte Costituzionale che ci ha consegnato l'impianto attuale del titolo quinto su una serie di temi. Quindi questo problema credo che ce lo ritroveremo. Due ulteriori punti, gli ordini professionali, ma qui lei ha detto una cosa sacrosanta, dottor Giannino, lei ha detto una cosa sacrosanta, lo ribadisco, qui andiamo verso una riproposizione della grande guerra, del primo conflitto mondiale, con una guerra di trincea. Facciamo avanti un passettino nel derogare dai limiti delle piante organiche e dalle modalità di accesso con un innalzamento delle soglie numeriche, non risolviamo il vero problema che riguarda gli schemi di remunerazione dei diversi professionisti, quello degli avvocati. Non vedo ancora una traccia di un passaggio a schede di remunerazione che allungano per loro stessa definizione il processo civile, perché mettono gli avvocati nella condizione di vedere i loro onorari aumentare all'aumentare del tempo del processo, e non si va verso invece uno schema di remunerazione a forfè o ancorato ad altri parametri. Faccio solo questo esempio: non si rivedono gli schemi di remunerazione proporzionali all'importo della transazione riferiti ai notai, si aumenta il numero dei notai, ma non si interviene ad esempio su questo aspetto. E sul versante delle farmacie c'è un'espressione molto felice che non richiamo, ma che lascio sottintendere nel gergo e nella lingua, direi, napoletana, che è quella di piangere e stracciarsi le vesti da parte appunto di coloro che poi sostengono che andando in montagna non troveremo il farmaco, ma di fatto nella guerra di trincea si manifesta una grande capacità di resistenza, perché anche in questo caso si interviene cercando di aumentare la possibilità di ingresso, e questo è un aspetto positivo, di neolaureati in farmacia che possono associarsi, ma non si interviene ad esempio sulle schede di remunerazione del farmacista, che ancora vede un margine fisso determinato dalla legge in fascia A che è proporzionale al prezzo, e lascio all'ascoltatore capire qual è l'incentivo del singolo farmacista nel vendere un prodotto a più basso prezzo con una scheda di remunerazione che è proporzionale al prezzo. Così come non si interviene sulla possibilità di distribuire il farmaco di fascia C con obbligo di prescrizione nella grande distribuzione. Allora, lei ha detto un'ultima cosa, non lasciamoci prendere dal benaltrismo, perché comunque è importante portare a casa alcuni risultati, monitoriamo il percorso parlamentare con grande attenzione, perché se queste sono le condizioni di partenza ho il timore che la negoziazione si chiuderà a ribasso sulla serie di punti. Anch'io. E questo mi preoccupa non poco, perché partiamo già da un livello che vedo complessivamente bassino. Anch'io. No, ma vedo che in realtà da punti di vista diversi, quello della Lega, è ovvio che c'è poi anche un rimarcare l'aspetto politico della faccenda, ma punti di vista diversi come sono per scuole, formazioni, ma convergenti come il caso del professor Pamolle, quelli dell'onorevole Lanzillotta, mio che sono un estremista, ma in realtà tutti quelli che hanno a cuore, una volta che si dice basta solo con il ricordo lenzuolate, apriamo la concorrenza, poi il problema è che come sempre in Italia bisogna vedere l'energia e il tasso di coerenza trasversale per problemi che vi possono sembrare molto diversi, ma che in realtà insistono su faccende analoghe, perché dalle reti di distribuzione alle reti invece su cui passa l'energia o su cui si fa concorrenza per il mercato e nel mercato, come è quella ferroviaria, e voglio dire, bisogna avere dei criteri analoghi. Se invece su ognuna di queste faccende si fa la contrattazione con chi è più o meno forte, perché questo è ciò che avviene per esempio nel gas come nelle ferrovie, criteri diversi quando la faccenda è del tutto analoga rispetto a una rete distributiva, e quando si capisce che le professioni hanno già esercitato un grande diritto di fuoco, perché l'arretramento lì è molto forte rispetto a quello che si era detto un mese fa, obiettivamente temo che la presa che hanno in Parlamento sarà ancora più forte. Vedremo come va a finire. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, poi le telefonate degli ascoltatori. 9 in punto, la versione di Oscar. E mentre torna la musica di This is the End dei Doors, un ascoltatore che ringrazio ci ha mandato un sms al 349-238-6666, Bassano del Grappa, ora è 9.45, un Audi con sirena e lampeggiatore supera su una strettoia pericolosa fila di auto, è inutile, l'Italia non cambierà mai. Ecco, quando ascoltatori ci pizzicano in diretta con fotografie così dell'Italia pubblica che non vogliamo, non so chi sia su quell'Audi, non so che ragione abbia ad andare col lampeggiatore, capisco chi è in fila e non ne può più di Audi con lampeggiatore che le superano, tanto poi in un punto come questo mi pare di capire rischioso, allarghiamo le braccia e diciamo sì, facciamo la liberalizzazione, ma intanto uno Stato più leggero con meno tasse e meno contributi ci farebbe crescere di più. Sì, bisogna fare entrambe le cose, solo che qui le liberalizzazioni ne discuteremo, le stiamo discutendo, continueremo a discuterle in questi mesi, intanto però il taglio allo spazio più leggero, il taglio allo stock di debito e di spesa non c'è, e questo per chi la pensa come me è il vero problema numero uno della crescita italiana. Sentiamo come la pensa Antonio da Pescara, prego Antonio. Sì, salve, buongiorno. Senta, io non riesco a capire come sia riuscito a far fuori da questo, intervento il settore turismo con le concessioni balneari. E pensare quanto, ne conosco come minimo 5-6 di balneatori che non riescono, che dicono aspettiamo fino a quando non c'è un intervento dello Stato a chiarire l'intervento. Io sono sconcertato in questo. Allora, qui il problema è che la disciplina delle concessioni, avrà letto che c'era un articolo preciso che diceva gare ogni 4 anni, poi è partita una consultazione regionale su questo con le regioni, E su questo bisogna vedere fino all'ultimo secondo poi cosa ci sarà in Parlamento. Questo, siccome l'avevo chiesto anch'io 2 giorni fa, questa è stata la risposta che mi è data, dicendo il governo non è che non vuole farlo, ma c'è una consultazione rispetto alle competenze concorrenti. Questo è quello che mi sento di dire, vedremo. Mauro, che chiama dalla provincia di Monza, Brianza. Prego Mauro. Buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità. Sì, figuri. A me sembra sinceramente di assistere, con tutto rispetto, a una discussione surreale. Noi stiamo parlando di libere esercizioni o cosiddette tali, e tutto deve dimostrare che porteranno qualcosa di positivo, quando abbiamo tutta una serie di dati certi che fanno vedere come ci siano miliardi di euro mensili di sprechi nelle regioni del centro-sud e non si vuole intervenire. Anzi, si sta affossando il federalismo già scritto, già fatto, che deve solo far partire per far sì quantomeno che le siringhe costino a Napoli, a Palermo, come a Milano e a Venezia. No, questo non si vuole fare. A me sembra che sia un governo e una maggioranza che lo sostiene, gli apprendisti stregoni, con tutto rispetto per gli stregoni del Katanga. Vabbè, Mauro, abbiamo capito che quindi lei è per l'opposizione di Sua Maestà, e quindi immagino quale tipo di opposizione, però legittimo. Lorenzo, dalla provincia di Trento. È caduta la linea con Lorenzo, e quindi mi pare di capire che in questo momento siamo sprovvisti di telefonate alla fine. Posso fare una domanda a Linda Lanzillotta? È ancora in linea? Ecco, si aspetta in Parlamento dalla maggioranza, diciamo così, bipartisan, anzi le tre parti politiche che compongono la parte fondamentale, prevalente, larghissimamente prevalente della maggioranza, cioè da Terzo Polo, PDL e PD, si aspetta un confronto migliorativo o chi teme i passi indietro come noi hanno qualche fondamento secondo lei? Guardi, appunto, intanto io vorrei dire che nonostante tutti gli aspetti, le critiche che si possono fare, è un pacchetto poderoso che cerca, diciamo, di scrostare un paese bloccato e di fare un po' di modernizzazione di settori economici, che è giusto, non avrà un impatto immediato nella crescita. Però ma questo chiacchiera. Pensiamo solo alle farmacie, no? Lì le parafarmacie non hanno ridotto il volume di attività delle farmacie, se non in misura marginalissima, e hanno creato un sacco di nuovi posti di lavoro. Ciò detto, io credo che la maggioranza, come ha accettato e approvato il primo decreto, oggi non può che varare questo provvedimento, che è l'altra leva che deve dare credibilità anche alla gestibilità delle politiche di consolidamento dei conti pubblici. Ma certo il percorso non sarà complicato. Facile, perché le resistenze in Parlamento le temo anch'io. Io la devo interrompere perché abbiamo esaurito il nostro tempo. Grazie a onorevole Lanzillotta, professor Pamolli, al senatore Franco. Appuntamento a domani. Radio 24. La passione si sente.